2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 30 marzo 2013, bentornati a 2024, benvenuti se questa è la prima volta, questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Siamo in diretta anche oggi, quindi potete chiamare il nostro numero verde 800240024, potete inviare sms, usare Facebook o anche Twitter. Iniziamo da quello che alcuni hanno definito il più grande attacco informatico della storia. Beh, sicuramente definizione un po' esagerata. Di sicuro l'allarme lanciato dal New York Times è esagerato. Questa è stata una definizione che poi tutti, o meglio, molti hanno ripreso e noi non abbiamo ripreso. Allora, comunque, che cosa è successo? Tutto è nato da... dopo che Spam House, un'organizzazione no profit con sedi a Londra e Ginevra e che compila liste per filtrare lo spam, ha messo nella lista nera la società olandese Cyberbunker, che molti utilizzano per inviare milioni di email pubblicitarie. Quindi Spam House ha detto: questi fanno spam. Però, poiché i servizi e i filtri di Spam House vengono utilizzati da molti provider in tutto il mondo, le email inviate dai server di Cyberbunker risultano ora spam, quindi vengono bloccate con evidenti danni economici alla società e anche ai suoi clienti. Però gli olandesi non solo hanno criticato questa decisione, ma dalle 19 marzo, con un'escalation che effettivamente c'è stata, hanno lanciato una serie di attacchi contro Spam House. Tecnicamente stiamo parlando di un attacco Distributed Denial of Services, con il quale, allora, chi attacca invade la rete con, tra l'altro, strumenti anche abbastanza semplici. Potremmo tradurlo, giusto per farci capire da tutti, con un effetto che è paragonabile a quello che si creerebbe se tutti uscissimo contemporaneamente con l'automobile intasando la strada. Cioè, se tutti, o comunque ad esempio se tutti accendono la corrente elettrica o se aprono il rubinetto, beh, le reti vengono messe sotto stress, e questo succede quando qualcuno decide di lanciare un attacco di questo tipo. Di sicuro non è stato l'attacco informatico più grande della storia, anche perché non ci sono dati a sostegno di questa tesi. Allora, non vi è dubbio che, vista la quantità di attacchi, di azioni di spionaggio industriale, di furto di identità o di denaro che viene registrato ogni giorno, beh, è diventata una priorità per aziende e governi investire in servizi per proteggere i propri dati e le proprie infrastrutture. Del resto, in alcune delle puntate recenti di 2024 abbiamo sottolineato questa esigenza. Allora, una buona notizia è che anche l'Italia si sta dotando di una strategia per la sicurezza nazionale. Tutto arriva però dall'Europa. È stato pubblicato da poco in Gazzetta un decreto che prevede, tra l'altro, la costituzione di un CERT. Il CERT è un team di esperti per la risposta ad emergenze informatiche, tradotto è, cioè non tradotto, l'acronimo è Computer Emergency Response Team, è una cosa sicuramente molto importante. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Iniziamo dall'aggiornamento di febbraio 2013 dei dati AudiWeb, che ci danno una stima di quanti italiani accedono alla rete internet. Allora, lo scorso mese sono stati 28,6 milioni gli utenti che hanno effettuato almeno un accesso alla rete da computer, il 52% della popolazione dai due anni in su, con una crescita del 3,3% in un anno. In un giorno medio, le persone che si collegano alla rete internet, quindi con una certa regolarità, sono 14,6 milioni, il 54% sono uomini. Digital News. Facebook ha convocato i giornalisti per il 4 aprile ad una conferenza stampa intitolata La nostra nuova casa su Android. C'è chi pensa ad un telefonino marchiato Facebook, ma molto probabilmente si tratterà di una maggiore integrazione con il sistema operativo Android su uno smartphone HTC. Digital News. Gli ultimi due quotidiani britannici ad abbandonare la versione gratuita online sono il Sun e il Daily Telegraph. A questo punto, in Gran Bretagna, tutti i grandi quotidiani hanno una forma di abbonamento al sito internet, e questa dobbiamo abituarci perché è una prospettiva a cui probabilmente dovremo abituarci anche in Italia, visto che la pubblicità online non riesce a ripagare le perdite dei ricavi delle copie cartacee, che si vendono sempre meno. Digital News. Apple ha acquistato per 20 milioni di dollari una società che si chiama Wi-Fi Slam, una startup specializzata in una cosa che si chiama indoor positioning, cioè servizi di posizionamento all'interno degli edifici. Noi siamo abituati ad avere servizi di geolocalizzazione all'esterno con il GPS. In questo caso caso la società sviluppa applicazioni in grado di localizzare uno smartphone sfruttando i segnali wifi all'interno di un edificio. Pensate ad esempio che cosa può succedere in un supermercato dove con lo smartphone ci possono inviare delle promozioni dicendo: guarda, se fai 5 metri trovi il banco della carne dove c'è la promozione tal dei tali. Indoor positioning è molto interessante. Un'ultima notizia riguarda Amazon, che ha comprato Goodreads, una società, un social network dedicato ai libri e alla condivisione di giudizi tra lettori. Goodreads ha 10 milioni di membri e più di 360 milioni di libri catalogati. Più tardi sarà con noi Renato Soru, che è il fondatore di Tiscali, per parlare di alcune novità che riguardano Tiscali a partire da Istella, che è il nuovo motore di ricerca. Ma la cosa importante è che cercheremo di ragionare anche sullo sviluppo dell'economia digitale, del valore che questa economia ha per l'Italia e per l'Europa. Adesso parliamo di e-commerce. Qual è la situazione in Italia? Quante sono le persone che fanno acquisti tramite internet? Quanto crescono e quindi anche quanto cresce il mercato? Allora, un tema importante anche per le aziende, e ne abbiamo parlato questa settimana con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico in Italia. Un dato stupefacente: dalla rendicontazione che abbiamo svolto in questo mese siamo arrivati a ben 14 milioni di acquirenti online. Questi 14 milioni vanno confrontati con i 9 milioni di acquirenti online dell'anno 2012, il che significa che in un anno c'è stato un incremento che supera il 45% degli acquirenti e le transazioni, cioè il numero di acquisti che sono stati fatti online, sono aumentati di circa il 50%. Un dato stupefacente, perché è sorprendente che in un momento così difficile per l'economia del nostro paese ci sia stata questa crescita vorticosa di coloro che hanno utilizzato l'online per soddisfare i propri bisogni di acquisto in una realtà come quella italiana, che ha sempre visto l'uso del contante come mezzo principale per fare acquisti. E in un'economia come quella italiana, che vede un grandissimo ritardo nell'uso degli strumenti di pagamento elettronici rispetto a tutti i paesi occidentali ed europei, e dove l'uso del contante è ancora l'elemento prevalente, noi abbiamo rilevato da questa ricerca che c'è una relazione diretta tra coloro che hanno dei conti correnti online e coloro che hanno l'utilizzo delle carte di credito e il numero di acquisti che vengono fatti online. Quindi in qualche misura l'abilitazione, l'abitudine ad utilizzare conti correnti online, l'abitudine ad utilizzare le carte di credito facilita gli acquisti. E abbiamo rilevato negli ultimi anni come l'online, l'acquisto online, è inibito soprattutto dal pagamento, tant'è che quello che viene chiamato il drop off o la perdita, la caduta nel processo di acquisto avviene esattamente quando si deve fare il pagamento, perché il cliente si impaurisce di dover mettere i propri dati identificativi, la carta di credito e gli altri elementi identificativi, e quindi esce dal carrello. Allora, la domanda che ci siamo fatti con questo osservatorio che abbiamo presentato oggi e che ha dimostrato come in questo anno di crisi siamo passati da 9 a 14 milioni di italiani che acquistano online, la domanda è: ma cos'è avvenuto nell'ultimo anno che ha creato questa situazione esplosiva? Ho sbagliato nel dire 45, in realtà l'incremento in un anno è stato del 55% di acquirenti nuovi acquirenti. Allora, quello che è capitato l'abbiamo poi letto nell'analisi un po' più di dettaglio. L'elemento sicuramente più significativo è che è aumentato in maniera molto importante l'offerta, quindi gli italiani hanno trovato sul loro telefonino, sul loro PC, un'offerta molto più ampia, cosa che ovviamente non c'era negli anni precedenti. La seconda cosa che è avvenuta è sicuramente che l'online permette di confrontare i prezzi, quindi in un'economia recessiva la possibilità del confronto, la possibilità in qualche misura di un acquisto più consapevole è resa possibile ovviamente dagli strumenti elettronici. Ma il terzo fattore, molto più importante, che ha cambiato drasticamente l'ecosistema, è stato lo smartphone. Lo smartphone ha dimostrato che il fatto di poter avere uno strumento facile per andare a cercare i prodotti, uno strumento facile per pagare, uno strumento facile per commentare i propri acquisti, quindi fare anche del social networking, è sicuramente quello che ha cambiato da un lato il comportamento degli italiani in senso più generale, ma anche nello specifico il comportamento d'acquisto. Infatti la cosa che è rilevante nell'osservatorio che abbiamo presentato è che siamo passati negli acquisti complessivi, nei famosi 10 miliardi di acquisti online, siamo passati dal 2012 al 2013 dal 4% di acquisti fatti con lo smartphone al 10%, e questa è sicuramente la cifra che ci ha più colpiti. C'è stato più del raddoppio di acquisti fatti con lo smartphone, il che significa che lo smartphone, che è uno strumento se vogliamo col quale ci sentiamo più confidenti, abbiamo più confidenza, perché è vero che al PC passiamo molte ore, ma col telefonino ci conviviamo durante tutta la giornata, e quindi questa confidenza che si è creato con lo strumento ha creato in qualche misura una trust, quella che viene chiamata una trustability, una sicurezza, una confidenza che ha facilitato il comportamento digitale degli italiani. Però a questo punto faccio una domanda sul cosa si acquista, perché uno potrebbe pensare che dal telefonino acquistiamo canzoni o biglietti per andare al cinema. Cosa comprano gli italiani? Soprattutto che cosa comprano da telefonino, da mobile? Allora, bisogna fare qui un distinguo tra quello che gli italiani cercano sul telefonino e quello che gli italiani comprano sul telefonino e quello che gli italiani fanno col telefonino, utilizzando il telefonino come strumento di pagamento, perché bisogna sempre ricordarsi che nell'acquisto non c'è l'atto d'acquisto, ma c'è un processo che parte dalla ricerca del prodotto, dalla comparazione del prodotto, poi dall'acquisto e poi dalla comparazione e dallo scambio di informazioni con gli altri amici e con i social network. Allora bisogna dire che il telefonino sta diventando uno strumento abilitante per qualsiasi acquisto, non soltanto dal telefonino ma addirittura nel negozio, quindi sta diventando uno strumento importante per quello che viene definito l'acquisto multicanale, l'acquisto digitale ma multicanale, non necessariamente online ma anche nel punto di vendita. Quindi si sta ampliando quello che è, se vogliamo, il panorama dell'uso del telefonino per l'acquisto, che non necessariamente sono online. Il secondo è: io cerco delle cose online e poi le acquisto sul PC di casa la sera, e questo è tutto quello che normalmente viene acquistato sul PC, che può andare anche addirittura all'acquisto di cose normali, che vanno dall'alimentare fino all'acquisto dei beni durevoli, dal frigorifero o altro. Poi ci sono quei beni che vengono cercati sul telefonino e acquistati sul telefonino. Allora, se zoomiamo su questa parte specifica, che sono i beni che vengono ricercati sul telefonino e acquistati sul telefonino, troviamo alcune cose. In primis, quello che è cresciuto di più è l'acquisto di abbigliamento, quello che viene definito come le flash sales, cioè le vendite private, l'abbigliamento venduto dai famosi van privé, Privalia, saldi privati, showroom privé, che addirittura rappresentano oggi dal 20 al 25% delle vendite di questi operatori. Un quarto delle vendite vengono fatte dal telefonino, perché sono vendite immediate, sono vendite emozionali, sono vendite dove si vede subito l'opportunità, viene guardata e viene comprata, quindi l'abbigliamento. Il secondo settore è sicuramente quello che è il viaggio e il ticketing, cioè tutto ciò che riguarda la mobilità, perché il telefonino è uno strumento così correlato alla mobilità da facilitare gli acquisti per la mobilità. Il terzo elemento è tutto il mondo dell'entertainment, dal libro alla musica, che è ovviamente commisurata anche, se vogliamo, al fatto che il telefonino non è solo telefonino, ma anche tablet, perché io posso comprare un libro e leggermelo direttamente o ad ascoltare un pezzo di musica. Ecco, questi sono i settori, ovviamente le tecnologie, i prodotti tecnologici sono così connaturati con l'uso della tecnologia, questi sono i settori che sono più strettamente correlati alla ricerca del prodotto e all'acquisto del prodotto. Però ovviamente il telefonino sta entrando nei comportamenti in maniera molto più ampia, perché sta diventando lo strumento la cui confidenza è così elevata da permettere di rendere il comportamento digitale trasversale anche a quelli che sono i contenuti presenti anche nei prodotti oppure nei negozi tradizionali. Un'altra domanda che abbiamo fatto a Roberto Liscia riguarda il valore del commercio elettronico sul totale delle vendite al dettaglio. Ne riparliamo tra poco. 2024. Quanto vale il commercio elettronico sul totale delle vendite al dettaglio? Questo è un dato importante, giusto per avere un'idea, perché abbiamo sentito che il commercio elettronico cresce moltissimo, ma il valore sul totale delle vendite al dettaglio è ancora piccolo. Beh, noi in Italia siamo arrivati, come dicevamo, con la crescita del 20% negli ultimi anni a circa 10 miliardi di euro di fatturato. Questo fatturato complessivo del transato rappresenta una quota circa dell'1,2-1,3% sul totale retail, che è ancora molto distante da quello che succede sulla media europea, che è tra il 7, l'8, anche il 10%. Bisogna tenere presente che nei paesi più evoluti, come la Danimarca, l'Olanda, la Svezia e la Finlandia, la penetrazione delle vendite online è tra il 18 e il 20%, e alcuni di questi paesi, con quale mi sono confrontato in questi giorni, prevedono che nell'arco dei 5 anni futuri la penetrazione delle vendite online sul totale retail raggiunga il 50%. La nostra distanza è ancora oggi, questo l'1-2%, è ancora più evidente se andiamo a prendere alcuni comparti specifici, per esempio quello delle tecnologie, dove noi rappresentiamo la vendita online rispetto al totale retail del 7-8% contro una media europea del 18%, e quella dei viaggi, dove il 25% è venduto online rispetto al 45-50% media europea. Quindi la nostra distanza è abissale. È chiaro che il futuro non sarà solo online, il futuro sarà multi-retail, multi-channel, nel senso che i negozi da questa evoluzione non spariranno, che è la domanda che spesso mi viene fatta, ma i negozi dovranno riconfigurare il loro modo di vendere e di essere, introiettando anche loro delle componenti tecnologiche che oggi non hanno. Dunque, dicevamo poco fa che è aumentata l'offerta, quindi l'e-commerce italiano cresce anche grazie ad un'offerta maggiore. Questo significa che sono arrivati grandi gruppi dall'estero o anche in Italia molti si stanno svegliando? Liscia. Beh, i due fenomeni sono compresenti. Da un lato sono arrivati i grandi giocatori internazionali. Io ero a Bruxelles con gli altri 8 paesi, perché abbiamo creato questa associazione europea con gli altri 8 paesi, e tutti i grandi giocatori internazionali guardano l'Italia come un mercato promettente, perché ovviamente si sta spostando il potenziale di acquisto dal settore tradizionale al settore digitale, quindi c'è un forte interesse da parte dei giocatori internazionali. Ma la seconda cosa è che la difficoltà, la recessione che sta colpendo i piccoli giocatori italiani, i piccoli distributori, i piccoli negozi, i piccoli produttori, li sta in qualche misura portando a considerare questo come un canale di eccellenza. Non soltanto più come un canale da guardare o con sospetto o come semplice opportunità tattica, ma sta diventando per molti piccoli operatori la vera opportunità con la quale andare incontro ad un mercato che si sta restringendo da un lato, ma dove il digitale può far allargare a nuove opportunità di target che finora non erano raggiungibili dai piccoli operatori del mercato, diciamo, in qualche misura italiano. Quindi gli operatori italiani, oltre che esserci, stanno crescendo? Gli operatori italiani stanno crescendo moltissimo. Tenete presente che in Francia un'ultima rilevazione parla di 100.000 merchant presenti in Francia. In Olanda stiamo parlando di svariate decine di migliaia. In Italia non sappiamo, perché i dati non sono certi, non c'è una rilevazione oggettiva, cosa che stiamo cercando di fare attraverso una ricerca che stiamo mettendo in atto in questi giorni, ma è prevedibile che entro la fine dell'anno raggiungeremo le 50.000 aziende merchant che offrono i propri prodotti sia come produttori sia come distributori. Dicevamo che la crisi poteva farci sorprendere di questa crescita del commercio elettronico. Da un certo punto di vista, forse proprio la crisi ha invogliato la gente ad acquistare online. Parlavamo anche del freno che c'è sempre stato per il pagamento. Quindi non è più questo un limite che la gente incontra quando si avvicina al commercio elettronico? No, la risposta è sicuramente che il pagamento è ancora un freno, perché, come dicevo, ci sono 14 milioni di italiani che comprano online, ma non dimentichiamo che continuano a esserci più di 50 milioni di italiani che non comprano online. In Italia ci sono circa 17 milioni di conti correnti online, ma gli italiani sono che potenzialmente potrebbero avere un conto corrente circa tre volte tanto. Quindi il ritardo che c'è e il digital divide che c'è tra gli italiani che usano conti correnti online, che usano carte di credito, che fanno acquisti online, è un'Italia che è diversa dall'Italia che non lo fa e che non è abilitata. Questa distanza continua a esserci ed è molto importante che la pubblica amministrazione, che i servizi della pubblica amministrazione locale riescano in qualche misura a abilitare tutta una serie di servizi, perché è stato dimostrato in tutti i paesi occidentali che il cittadino diventa digitale se prima è soprattutto un cittadino digitale e quindi è abituato a interagire con la pubblica amministrazione locale e centrale in maniera digitale. Ultimo capitolo riguarda i sistemi di pagamento che vengono utilizzati. Bisogna tenere presente che PayPal, dalla rilevazione che abbiamo fatto noi nell'ultimo mese, il 37% degli acquirenti ha usato PayPal negli ultimi tre mesi, mentre il 48% ha utilizzato delle carte di credito. Il restante è suddiviso tra contanti e bonifici. C'è da dire però, molto importante, che dei 37% di italiani che hanno usato PayPal, sotto PayPal viene ancora usata la carta di credito. Quindi è plausibile pensare che le carte di credito rappresentino circa il 70% dei pagamenti fatti online. Che poi questa carta di credito venga utilizzata direttamente come strumento di pagamento o inserita nel wallet di PayPal, questo è sicuramente un elemento che sta avvenendo, perché spesso il cliente italiano si sente più tranquillo nell'usare un wallet dove ha già caricato i suoi dati identificativi piuttosto che usare una carta di credito in cui andare a mettere sulla transazione i suoi dati identificativi. Ed è per questa ragione che noi oggi abbiamo annunciato l'uso di MyBank, cioè è stata fatta la prima transazione italiana con MyBank, in particolare tramite la banca Raiffeisen dell'Alto Adige, due compratori hanno acquistato dell'olio Carli dalla banca Sella. MyBank è una cosa molto interessante che è stata sviluppata da tutte le banche europee, che permette a qualsiasi compratore europeo, a qualsiasi cittadino europeo, di utilizzare il suo home banking per fare un acquisto di qualsiasi prodotto in qualsiasi paese. Questo fatto è molto importante perché permette da un lato di utilizzare il proprio home banking e quindi io non devo mettere nessun dato identificativo e quindi mi dà confidenza e trustability perché io sono abituato ad utilizzare il mio conto corrente. La seconda è che permette, soprattutto nei paesi dove ci siano un acquisto fatto in un paese diverso, da un lato di riconoscere il merchant, sapere che quel merchant ha quella banca, e dall'altro di riconoscere il cliente, perché il cliente è identificato dal fatto che paga col suo home banking. Il terzo elemento molto importante è che ovviamente questo aumento degli strumenti di pagamento porterà due benefici. Da un lato per i merchant sarà quello che viene chiamato aumenta la reach, cioè aumento la possibilità di raggiungere più clienti che magari si sentono più confidenti con un mezzo di pagamento piuttosto che un altro. Potenziale cliente. Il secondo aumento la conversion, perché se il mezzo di pagamento ha questa trustability, cioè questa sicurezza percepita più elevata, è chiaro che io non mi fermo quando sto per pagare, ma mi sento di pagare, quindi aumento la conversion. Il terzo, che ovviamente tende, aumentando la concorrenza dei mezzi di pagamento, ad abbassarne i costi, perché ovviamente i mezzi entreranno veramente in concorrenza. Era la voce di Roberto Liscia, presidente del consorzio per il commercio elettronico in Italia, Netcom. Questo MyBank è un servizio molto interessante perché oramai quasi tutte le banche offrono, assieme al conto corrente, anche la versione digitale, quindi online, del proprio conto corrente, quindi l'home banking online su internet. E grazie a questo nuovo sistema che è stato lanciato pochi giorni fa in tutta Europa è possibile pagare quando si fa un acquisto online attraverso il proprio sistema di home banking. Magari ne parliamo anche tra poco. Prima volevo ricordarvi tre cose. La prima, parleremo tra poco della strategia per la banda larga, per la diffusione della banda larga in Europa, con Neelie Kroes, il commissario europeo all'agenda digitale. E poi sarà con noi Renato Soru, che è il presidente nonché fondatore di Tiscali, per parlare di alcune novità, ma anche dell'importanza dell'economia digitale, delle opportunità che ci stiamo lasciando sfuggire noi come europei soprattutto. Ne parliamo tra poco. La terza cosa è una segnalazione per la prossima settimana. Vi ricordo che ci occuperemo di tecnologia e scuola, prendendo spunto dal primo meeting degli studenti sulla scuola digitale del futuro organizzato dall'associazione Impara Digitale. Allora, questo appuntamento ci sarà venerdì prossimo, quindi venerdì 5 a Bergamo, presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII, ma verrà trasmesso anche su internet e poi comunque ne parleremo 2024. Parlando di quella che si potrebbe definire la scuola digitale, l'associazione Impara Digitale dice, parole condivisibili, non è sufficiente introdurre nelle aule tablet o ebook per trasformare il mondo della scuola. È necessario che la tecnologia diventi strumento per permettere a studenti e agli insegnanti di avviare un processo innovativo di costruzione del sapere attraverso un metodo collaborativo che metta al centro i ragazzi e che permetta di attuare una vera didattica per competenze. Trovate maggiori informazioni su www.imparadigitale.it. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata, la puntata del 30 marzo 2013. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24. Oggi c'è Rosa che è direttamente nel nostro studio per aiutarci al centralino. Il centralino era un po' deserto oggi, allora Rosa è giustamente venuta qui. In regia c'è Pietro Lacorte che ci assiste oggi. Ringrazio anche Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi durante la settimana è 2024@radio24.it, valido anche durante la nostra trasmissione. In questo momento potete comunicare o chiamando il nostro numero verde o gli SMS, Twitter o anche Facebook. Abbiamo parlato poco fa di MyBank, questo nuovo servizio che è stato lanciato ufficialmente in tutta Europa il 25 marzo, quindi pochi giorni fa. È molto semplice ed effettivamente dovrebbe aumentare, oltre che non tanto la sicurezza, diciamo il grado di percezione di affidabilità del sistema da parte dei consumatori. Perché? Allora, è un sistema di pagamento per fare acquisti online che si basa sul nostro conto online. Leggo dal Deplian che mi hanno dato questa settimana di MyBank. L'acquirente sceglie un prodotto o un servizio e lo aggiunge al carrello online. Clicca sul pulsante MyBank perché ci sarà una scelta. Vuoi pagare con carta di credito, bonifico, PayPal, eccetera, eccetera. Ci sarà anche il pulsante MyBank. Oh, magari non ci sarà domattina, visto che è stato lanciato il 25 marzo. Seleziona la banca, quindi se io sono cliente della banca Pinco Pallo, seleziono la mia banca e vengo reindirizzato al portale internet della mia banca. Entro con le mie credenziali e a questo punto ci saranno tutti i dettagli dell'operazione che devo autorizzare. Quindi si presume ed è presumibile che se uno entra nella propria banca si fidi del sistema di pagamento, e quindi questo dovrebbe favorire ulteriormente la crescita del commercio online. Comunque il servizio si chiama MyBank ed è molto semplice da raggiungere anche su internet, mybankpayments.eu. E comunque lo potete anche cercare sui motori di ricerca, magari provate Istella che è un motore di ricerca nuovo di Tiscali di cui parleremo tra poco con Renato Soro che sarà nel nostro studio. Adesso invece parliamo della Commissione Europea che ha presentato martedì una nuova proposta sotto forma di regolamento per la diffusione di reti in banda larga. Allora, questo è importante perché forse sfugge ai più e purtroppo anche ai politici italiani che buona parte di quello che accade nel paese viene deciso a Bruxelles e molto spesso noi recepiamo semplicemente. Quindi il tema della banda larga è un tema importante, quindi è bene sapere quello che succede a Bruxelles. Allora, parliamo di una serie di norme che dovrebbero far risparmiare denaro e velocizzare i lavori di posa delle nuove reti in fibra ottica. Una delle premesse che si fanno spesso è quanto la diffusione di reti internet ad alte prestazioni possa generare benefici all'intera economia. Ecco che cosa ha detto il commissario all'agenda digitale europea Neelie Kroes. 10 percentage points more broadband means 1 to 1.5 4% more GDP growth. Allora dice, un aumento della diffusione della banda larga porta ad una crescita, un aumento del 10% della diffusione della banda larga porta ad una crescita dell'1,5% del prodotto interno lordo. Quindi guardando i conti dell'Italia, un punto e mezzo di PIL in più è una cosa incredibile. Ma bisogna diffondere la banda larga. Allora, uno dei punti chiave della nuova strategia europea è la sinergia che verrà imposta e agevolata fra gli operatori di telecomunicazioni e i gestori di altre infrastrutture, come ad esempio l'acqua, il gas, eccetera, eccetera. Cutting duplicate work sounds very easy and could be easy. Tagliare i lavori doppi, dice la Croes, visto che costruire reti in fibra ottica richiede infrastrutture fisiche che spesso sono già disponibili, è possibile riutilizzare infrastrutture possedute da altri soggetti. And why should you spend extra money and effort duplicating what's already there? Beh, perché spendere denaro extra per duplicare qualcosa che esiste già? Però mi verrebbe da dire, ci voleva tanto tempo per pensare a questa cosa che mi sembra di buon senso e che probabilmente molti altri hanno detto. Comunque, prendiamo atto. La Commissione propone poi che venga realizzato un effettivo coordinamento dei lavori pubblici e si semplifichino le procedure per ottenere i permessi. E devo dire che purtroppo sentiamo spesso gli operatori lamentarsi di quello che succede in molte pubbliche amministrazioni locali, che non capiscono che bisogna agevolare i lavori per diffondere internet in tutti i modi, soprattutto però quando si parla di fibra ottica, questo è molto importante. Allora, un altro capitolo molto importante riguarda le case e gli uffici. We will ensure broadband ready buildings. All new buildings and major renovations of buildings. Vogliamo arrivare ad avere edifici pronti per la banda larga. Tutti i nuovi edifici, quelli che vengono completamente ristrutturati, dovranno essere dotati di reti ad alta velocità, e questo è solo buon senso, dice la Croes. È quello che i cittadini vogliono ed è positivo anche perché è un buon investimento. Dopotutto, oggi chi comprerebbe una nuova casa, un nuovo ufficio che non sia dotato di elettricità o acqua corrente? Probabilmente nessuno. Bisogna oramai capire che internet è necessario e utile, così come lo è l'elettricità, l'acqua corrente, il gas, eccetera, eccetera. Sentiamo ancora la Croes su i risparmi. And all together those measures could save between 40 and 60 billion euros. And that could make achieving our broadband targets up to 30% cheaper. Molto interessante. Messe tutte insieme, queste misure potrebbero generare risparmi fra 40 e 60 miliardi di euro, facendo raggiungere all'Unione Europea gli obiettivi di diffusione della rete internet a banda larga con risparmi di circa il 30%. Misure che dovrebbero, lei dice devono, ma io ho messo il condizionale, dovrebbero evitare di fare lavori due volte, creando meno problemi al traffico, meno rumore, meno disagi, eccetera, eccetera. In più, conclude la Croes, daranno ai proprietari delle infrastrutture, sia pubblici che privati, la possibilità di avere nuove entrate affittando le loro reti. Molto importante, anche se, ripeto, ci si poteva arrivare prima. Stiamo parlando ancora di una proposta, ma speriamo che questa proposta diventi presto un regolamento che poi venga attuato anche nel nostro paese per diffondere le reti. Ora, naturalmente stiamo parlando di incentivi, di agevolazioni che dovrebbero agevolare e incentivare i privati, perché stiamo parlando di aziende private che diffonderanno queste reti. Certo però che se le favoriamo, magari internet si diffonde. In Italia, lo ricordiamo, sono già operativi alcuni meccanismi che agevolano le concessioni, i permessi, eccetera, eccetera, ma sicuramente un regolamento europeo favorirebbe ulteriormente questo processo. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco, sarà con noi Renato Soru, presidente fondatore di Tiscali, a tra poco. 2024. Questo è 2024, ci trovate poi anche sul nostro sistema podcast. Al termine della trasmissione potete scaricare la nostra trasmissione. Vi consiglio di usare i software che permettono di gestire il podcast e comunque andare sul nostro sito internet www.radio24.it. E con noi oggi nel nostro studio e saluto il presidente nonché fondatore di Tiscali, Renato Soru. Benvenuto a 2024. Grazie mille, buongiorno a voi. Partiamo dall'ultima cosa che avete lanciato e presentato, spiegando poi anche perché un operatore di telecomunicazioni si impegna, investe risorse e tempo per costruire un motore di ricerca. Poi non so se definirlo motore di ricerca. Il nome è, lo abbiamo detto ai nostri ascoltatori, Istella, quindi una stella con la I davanti che va anche, oltre che di moda, significa anche qualcosa in più. Che cos'è Istella? Ma Istella è un la parola sarda per dire stella. Poi in realtà in Sardegna, in alcune aree della Sardegna si dice Istedda con la doppia D, in altre aree si dice Istella nel modo in cui lo stiamo utilizzando noi. È un motore di ricerca, sì, con una differenza rispetto ai motori di ricerca tradizionali che tutti siamo abituati a utilizzare. Cerca sul web, ma cerca anche su archivi che non sono accessibili al web, su archivi storici, ad esempio su enciclopedie, su gli archivi dei beni culturali, su archivi dello Stato, archivi che progressivamente stiamo convenzionando e con cui stiamo facendo della partnership. Poi ancora si propone non solo di cercare sul web e anche sul web profondo cosiddetto degli archivi, ma anche di cercare sui contenuti che i singoli utenti hanno nei loro computer. Ciascuno di noi ha qualcosa da raccontare, ha tante cose da raccontare, da dire, ha un sapere che fino adesso l'ha dovuto tenere per sé o condividere con i suoi pochi amici. Grazie a Istella invece lo può archiviare presso il nostro servizio e condividerlo con tutti gli utenti internet. Per cui una ricerca molto più approfondita sul web, sugli archivi, dove c'è il grande sapere italiano, e poi sul patrimonio, il sapere comune degli utenti. Possiamo dire che è un motore di ricerca specializzato o è comunque un motore di ricerca dove io faccio le mie ricerche tradizionali e però posso anche raggiungere questi archivi? Esattamente così, può fare le ricerche tradizionali sul web così come siamo abituati a fare, per di più con i servizi classici, la ricerca web, ma anche la ricerca sulle news, la ricerca sulle mappe, sui video e così via. Quindi l'intera suite di servizi che ci aspettiamo da Google o da Bing. Noi siamo partiti dal presupposto che il mondo è anche fatto di tante differenze, uno solo, ma è fatto di tante differenze. E tra queste differenze c'è la cultura italiana, c'è la società italiana, ci siamo noi, che forse abbiamo il dovere di rappresentarci autonomamente e di rappresentare noi stessi secondo il nostro punto di vista, non necessariamente il punto di vista di un altro. E nel rappresentare noi stessi possiamo andare in maniera più approfondita a raccontarci. Proprio il livello di approfondimento credo che sia la nostra caratteristica. Noi tutti abbiamo sperimentato, qualche volta cerchiamo delle cose che riguardano la medicina o cerchiamo delle cose che riguardano la giurisprudenza, sentenze o qualcosa che riguarda la storia, la letteratura. Il web è come la punta di un iceberg che galleggia e mai riesce ad andare effettivamente in profondità delle cose. Il grande sapere italiano è conservato negli archivi, ma questi archivi non tutti sono nel web, anche quando sono digitalizzati sono comunque archivi separati. Noi vogliamo rendere vivi, vicini a ciascuna ricerca internet anche quegli archivi. E in più oggi si parla tanto di condividere, si parla tanto di partecipazione, ed è strano che in questa area qui noi non siamo mai stati chiamati a partecipare col nostro sapere e a condividerlo insieme agli altri. Come ci fate i soldi? Perché immagino che non sia costato poco, comunque non costerà poco, poi magari parliamo anche della tecnologia che ci sta dietro. Ma questa è la cosa che mi preoccupa di meno, perché i motori di ricerca in effetti sono il modello di business più collaudato su internet. Basta pensare che ormai Google è tra la seconda o terza società al mondo per capitalizzazione, quindi attraverso la vendita delle parole chiave, la pubblicità. Quindi lei dice comunque i soldi si faranno. No, l'iniziamo a fare già da subito, perché nelle pagine già dalle prossime settimane saranno contenute, così come siamo abituati a vedere, la pubblicità venduta sulla base delle parole chiave della ricerca. Quindi uno può venire sulla vostra piattaforma, scegliere quali parole chiave collegare al proprio nome di azienda oppure a qualsiasi altra cosa, sito internet eccetera, e investe facendo pubblicità su Istella. Sì, in maniera anche molto... molto semplice, ma anche senza alcun pregiudizio, perché ormai nei motori di ricerca si investe e si paga non in base all'esposizione, ma in base ai click che si ricevono. E quindi quando uno riceve un click, sì, lo riceva da un motore o da un altro sito, sempre un visitatore sulla propria pagina web otterrà. Che tecnologia c'è dietro? Perché c'è chi ha detto negli ultimi, visto che negli ultimi anni ci sono tanti che hanno provato a fare dei motori di ricerca, che hanno fatto dei motori di ricerca, ma spesso i più critici dicevano: ma è, se non impossibile, molto difficile mettere in campo una tecnologia, anche proprio come investimento e come potenza di calcolo, tale per fare concorrenza ai motori più famosi, Google in primis, ma anche Bing, che ha dei data center, una tecnologia piuttosto complessa. Sì, intanto negli ultimi anni in effetti c'è stato un tentativo in Italia, c'è stato un altro tentativo in Francia e poi basta, in Europa non è accaduto altro. Quindi stiamo parlando di un tentativo, di un progetto importante, ambizioso, che pone l'Italia tra i paesi europei che innovano e si prendono la propria responsabilità in questo campo. È una cosa che facciamo a ragion veduta, nasce da lontano, vorrei dire, nasce dal primo motore di ricerca italiano che si chiamava Arianna, che venne sviluppato da un team di ricercatori dell'Università di Pisa, che poi subito dopo entrarono nel gruppo Tiscali e svilupparono un altro motore di ricerca che si chiamava Janus, che poi ha vissuto, ha operato in Italia per qualche anno, in Italia ma anche in Francia e in Inghilterra. Eravamo però ancora agli albori di internet, in cui avevamo tanti progetti, gli utenti erano ancora pochi e gli investimenti pubblicitari erano pochissimi, e noi abbiamo capito in ritardo il grande valore dal punto di vista della raccolta pubblicitaria che la ricerca poteva avere. E quindi decidemmo, mi pare nel 2002, di cancellare questo nostro servizio e di utilizzare nel portale di Tiscali, di utilizzare Google, anche perché fummo immediatamente pagati in maniera importante per questo. Successivamente, già a fine 2003, avevamo capito di aver sbagliato e pensavamo di ripartire. Io ho lasciato un progetto in Tiscali per rifare il motore di ricerca già nel 2004, però poi, come qualcuno che ha ascoltato lì sa, ho lasciato la società per 6 anni e quel progetto è stato accantonato. È stato accantonato quel progetto, ma un gruppo importante di persone che ha lavorato su questi argomenti ha continuato a lavorare, a partecipare a progetti europei, e quindi negli anni ha cresciuto il suo know-how, le sue expertise. E allora finalmente 2 anni fa siamo ripartiti, mettendo assieme non solo le nostre persone, ma grazie anche alla collaborazione con l'Università di Pisa, con la CNR, con un team di amici di Parigi, che negli anni hanno sviluppato un servizio che si chiama Internet Memory Archive, e con 2 ragazzi russi che sono stati anche, che hanno collaborato con un motore di ricerca molto importante, che in Russia è il numero uno. Yandex, sì, sì. In Russia è il numero uno. Quindi c'è una storia dietro, ci sono anni di lavoro, di ricerca in questo ambito, e direi anche che c'è un know-how che l'Italia comunque ha, e che nel passato ha messo anche a fattor comune nella comunità scientifica mondiale su questi argomenti, e ha partecipato anche a investimenti di ricerca promossi dai grandi player tradizionali. Noi finalmente abbiamo utilizzato questo know-how per creare un nuovo servizio italiano che permetta di far nascere il lavoro italiano, sì, di far crescere una società italiana. Questo è molto importante. Allora, io nella mia breve e povera vita professionale ricordo poche frasi, perché mi sembra che nel mondo di frasi da ricordare ce ne siano molto poche. Ricordo molto bene, non so quanti anni fa, ma comunque parecchi anni fa, 8, 9, Renato Soro che disse: non capisco perché Dalla Sardegna, per cercare un ristorante o un hotel che sta in Sardegna, che quindi sta a pochi chilometri, debba fare una richiesta ad un motore di ricerca con dei server che stanno in California. Al di là della, diciamo, inefficienza del sistema, però c'è proprio un problema di strategia, non solo dell'Italia, a questo punto direi dell'Europa, che sta affidando tutta una serie di cose che diventano sempre più importanti per la vita di tutti i giorni a un'altra parte del mondo, che siano Stati Uniti o non, a me gli americani mi stanno anche abbastanza simpatici, però c'è proprio un problema di strategia e di valore che si trasferisce in un'altra parte. Ma pensiamo alla stupidità, ad esempio, di non avere un sistema di prenotazione degli alberghi. Siamo una grande nazione di alberghi e noi stiamo dando una parte del valore di questo a aziende che stanno negli Stati Uniti. Penso che come sistema paese sia stupido. Cerchiamo di essere concreti, anche un po' speranzosi, però c'è spazio? Ma certamente c'è. O non ce la facciamo più, anche come, ripeto, non tanto sistema nazionale ma sistema europeo? Necessariamente c'è lo spazio, certamente c'è lo spazio e necessariamente deve essere trovato, perché non stiamo parlando di efficienza dei servizi, non stiamo parlando di valore che viene trasferito da un paese all'altro o profitti che possono essere trasferiti. Vorrei chiamare tutto questo con una parola che oggi noi sappiamo è particolarmente importante, la vorrei chiamare come lavoro. Noi stiamo trasferendo all'estero le opportunità di lavoro, il nostro lavoro ci viene sottratto, delle cose che prima nel mondo tradizionale facevamo noi ed erano occasioni di lavoro e quindi di remunerazione e quindi di vita serena per famiglie, oggi nel mondo nuovo, delle nuove tecnologie, nel mondo di internet, noi non stiamo riuscendo ad acchiappare queste trasformazioni e a mantenere queste occasioni di lavoro al passo con i tempi. E mentre noi non riusciamo a farlo, queste opportunità ci vengono sottratte dall'estero. E allora noi dall'estero, naturalmente paesi per i quali abbiamo simpatia, amicizia, ma non potremo vivere della loro simpatia e della loro amicizia. Sì. Possiamo vivere solamente del nostro lavoro. E noi dobbiamo avere piena consapevolezza che in futuro dovremo anche mantenere i posti di lavoro legati alla tecnologia, ma anche a settori tradizionali che oggi si svolgono con nuovi strumenti tecnologici. Sì. Allora, il motore di ricerca è alla base di Internet. Noi sappiamo che senza il motore di ricerca proprio non ci potrebbe essere una nostra esperienza Internet. Non è normale, non è accettabile, non c'è alcun bisogno che ogni passo che noi facciamo su Internet lo dobbiamo fare guidati da dei server che stanno appunto in California, con delle società che stanno da qualche altra parte del mondo, con i posti di lavoro che sono ancora da un'altra parte del mondo, e noi finiamo solamente per essere consumatori e non si sa come ci guadagneremo da vivere. Voi per cercare di far utilizzare Istella da più persone, pensate anche di fare degli accordi, che ne so, con Mozilla, per esempio, oppure con altri servizi, o fare un browser voi stessi, non so. Noi anche qui la strada è molto semplice si può anche facilmente seguire l'esperienza degli altri. Google, per citare il più famoso, al suo servizio usufruibile all'indirizzo google.com o google.it per quanto riguarda l'Italia. Sì. Poi si possono fare, come ha fatto nel passato e ancora oggi fanno, accordi dove, con i diversi portali, dove si mette la search box, si chiama, sì, un piccolo spazio che è collegato col servizio di Google, tu metti fai la tua ricerca e ti restituisce delle pagine servite da Google. Anche Tiscali fino adesso è andata avanti così e ancora per i prossimi giorni ha utilizzato la ricerca di Google, nei prossimi giorni naturalmente utilizzerà la ricerca di Stella. Quindi noi stiamo iniziando a fare accordi con i portali italiani, dicendogli: piuttosto che avere la ricerca di Google, che naturalmente è bellissima, potete forse usare la ricerca di Istella, che è molto bella e fa delle cose che Google non fa: va a cercare sugli archivi, va a cercare sui contenuti che gli utenti hanno deciso di contribuire in rete e di condividere. Ma lei si sente di affermare che la ricerca tradizionale è almeno uguale a quella che fa Google? Intanto Google sta lavorando da 12 anni e sarei forse presuntuoso, sciocco, diciamo, a dire che dopo 12 giorni sì. il servizio online è uguale a quello di Google, anche perché questi motori imparano dalle risposte, hanno dei meccanismi di autoapprendimento, di machine learning o di intelligenza artificiale, come si diceva. Però posso dire per la prima volta una cosa, che molto presto chiameremo un gruppo di blogger e confronteremo i servizi, in maniera che senza pregiudizi e con dei dati di fatto possiamo analizzare la qualità del servizio e anche verificare quali sono gli archivi che con Istella si possono interrogare e che diversamente non si possono interrogare, e anche la qualità dei contributi degli utenti, la coda lunga di tutto sapere. Sì. Cioè, questo quindi vuol dire che se io sono, che ne so, appassionato di aerei e scrivo cose di aeroplani e me le archivio, posso metterle in condivisione e chi va a fare una ricerca può arrivare anche ai miei archivi. Arriverà immediatamente, velocemente, anche ai suoi archivi. Molto brevemente, visto che li abbiamo citati questi archivi, quali sono, per citare i più famosi, più noti, con cui abbiamo fatto accordi? Già degli accordi col Ministero dei Beni Culturali, col Sistema Archivistico Nazionale, col sito di benicolturali.it, con la Treccani, la Press, quindi l'agenzia di stampa. Adesso ci dobbiamo fermare per qualche minuto, c'è la pubblicità. Prima però rispondo ad un ascoltatore, perché effettivamente noi abbiamo parlato di Istella, visto che quando diciamo I spesso intendiamo la E perché parliamo all'inglese, no, in questo caso la I è una I, quindi Stella è scritto Stella, Istella è scritto con la I, che potremmo dire di Italia, quindi www.istella.it, molto semplice, magari lo ricordiamo in altri momenti, in altri casi. Le 16:33 minuti, ci risentiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Ospite oggi è Renato Soru, presidente nonché fondatore di Tiscali, uno dei, a questo punto direi, pochi operatori italiani, perché dopo Telecom Italia, dove comunque gli spagnoli hanno una bella zampa, ci sono molti operatori che sono stati o acquistati o sono controllati da stranieri. Se scorriamo la lista, c'è poco da sorridere. Prima Soru ci ha detto una cosa che io ritengo estremamente importante, cioè di quanto, ma il discorso non vale solo per l'Italia, vale per tutta Europa, l'economia digitale offra delle opportunità, e queste opportunità vadano colte per essere, oltre che protagonisti, anche per creare posti di lavoro nelle nostre nazioni, quindi in Italia, in Francia, in Germania, in Gran Bretagna non sono male, sono abbastanza bravi a cogliere le opportunità dell'economia digitale. Allora, rispondo anche, prima di ridare la parola a Renato Soru, a quelli che ci hanno scritto in questi giorni, alcuni dicendo ah che bello Istella, è bellissimo, mi piace un sacco, oppure alcuni che dicono è però ci sono alcune cose che non vanno. Lo diceva poco fa Soru, è normale visto che questo servizio è nato da poco, ma l'importante è cominciare a provarlo, utilizzarlo e magari scrivere anche a Tiscali tirando le orecchie a chi ha fatto questo servizio. Quando c'è qualcosa che non funziona, è normale che i primi tempi sia così. Dunque Soru, citiamo anche un altro dei servizi, perché poi la domanda è: ma perché voi fate questo, che siete un operatore di telecomunicazione, perché fate quello che fanno i cosiddetti over the top? Allora, citiamo un altro servizio che avete, diciamo, aggiornato, rinnovato nei poche settimane fa, nei mesi scorsi, che si chiama Induna. Sì, è un sistema abbastanza complesso. Dal mio punto di vista è un servizio di telecomunicazioni al tempo di oggi, dove rispetto al passato noi non ci accontentiamo più semplicemente di fare delle telefonate, magari delle telefonate in mobilità, e non ci accontentiamo più nemmeno dei singoli messaggini, delle SMS. Oggi vogliamo poter allegare i messaggi, delle fotografie, vogliamo poter allegare dei video, magari mandare la posizione, vogliamo anche non solo avere la possibilità di chiamare gratuitamente, a pochissimo prezzo, a pochissimo costo dall'altra parte del mondo, ma vogliamo anche avere la possibilità di fare una videochiamata gratuita, come ad esempio con Skype. E in più ormai abbiamo anche questo desiderio di comunicazione sociale, di condividere una foto, di condividere un messaggio con tutta una serie di amici, ad esempio stile Twitter. Induna fa esattamente questo. in un'unica applicazione. C'è una funzionalità come Skype, diciamo, che permette di chiamare su internet e quindi gratuitamente tra utenti in Duna, ma permette di chiamare anche gratis presso i numeri di telefono della rete fissa nazionale e di tutti i paesi dell'Europa. Permette di telefonare, permette di videochiamare, permette di mandare messaggi arricchiti. Una volta si chiamavano MMS, cioè, che sono ancora oggi carissimi. Invece, questo caso uno dei sono grandi fallimenti delle telecomunicazioni, però devo dire, non perché è che mai nessuno li ha utilizzati. Erano troppo cari. Sì, poi sì, è venuto WhatsApp, che esatto, è gratuito ed è esatto, un grande successo. In Duna c'ha la possibilità di telefonare come Skype, c'è la possibilità di messaggiare come WhatsApp, c'è la possibilità di socializzare come Twitter, tutto in un'unica applicazione. Ed è la prima applicazione europea in questo senso. È già abbastanza diffusa in Italia, si sta diffondendo nei paesi arabi, è in diffusione da agosto, in questa versione appunto sociale su iPhone e su Android, e sta facendo ben sperare. Perché voi fate queste cose? Perché uno potrebbe pensare che un operatore di telecomunicazioni si deve occupare delle telecomunicazioni, cioè fare delle belle offerte per la DSL, mettere un po' di fibra ottica, eccetera, eccetera. Invece voi fate cose che nel mondo fanno soprattutto altri, cioè fanno, diciamo, aziende che non fanno telecomunicazioni. Sì, nel mondo si è discusso spesso di una separazione tra gli operatori di rete e gli operatori over the top, cioè quelli che fanno i servizi che poi viaggiano sulla rete. E c'è anche una grande discussione che si crea più valore e più profitto nei servizi che magari hanno anche investito poco in infrastrutture, mentre gli operatori di telecomunicazioni che investono tanto in infrastrutture si vedono soffiare il valore dei servizi da questi cosiddetti over the top. E io credo che sia nostro dovere seguire l'innovazione e darsi la responsabilità di trovare una via anche italiana, europea, alla creazione dei servizi, non solamente lamentarsi del valore che questi servizi poi riescono ad acquisire. Quindi perché concentrarci sui servizi? Perché o si innova o si è destinati a morire. E oggi c'è molta più possibilità di crescita e c'è molto più possibilità di sviluppo, di futuro attraverso l'innovazione e la costruzione di servizi. Servizi che in questo momento l'Europa non sta producendo. Sì. E a proposito di servizi, ad esempio, servizi di cloud, pensate che possa essere una strada o no? Sì, certamente. Il primo servizio di cloud è la mail. Sì, certo. Ancora sì, sì, non lo chiamavamo, però, sì, sì, è vero. Però internet è nata sul cloud. Sì, no? Sì, internet è cloud, già cloud, sì, però esatto, adesso lo chiamiamo, sì, è vero. Ora, adesso stanno, forse ci riferiamo al cloud soprattutto per i servizi per le grosse aziende, per le aziende che nel passato si costruivano i loro data center, mettevano i loro computer nello scantinato, li mettevano in stati di sicurezza, avevano i sistemisti che li gestivano, e oggi invece stanno trovando più facilità a staccarsi, separarsi da questi computer, metterli nel cloud, in data center gestiti da altri. Anche qui, a parte anche operatori nazionali che pure ci sono, sta venendo fuori in maniera prepotente l'egemonia dei grandi operatori, esatto, americani. Amazon è uno tra questi, sì, che certamente pone un interrogativo nuovo, insomma, non solo diventiamo consumatori di tecnologie, di servizi, ma anche gli affidiamo totalmente i nostri dati. Sì. Infatti recentemente in un'intervista a Radio 24 Ipponen di F-Secure ha detto: io mi aspetto che molte più aziende si accorgano che forse affidare i dati a operatori americani non è forse molto positivo, e quindi mi aspetto che nascano operatori locali. Può essere uno scenario? Sì, in Italia anche Telecom Italia fa la sua, sì, offerta e la pubblicizza. Noi stessi, Tiscali stesso, ha la sua offerta cloud. E anche lì, con diversi livelli di complessità e per diverse dimensioni di clienti. Anche quando nel passato compravamo spazio disco o si comprava server dedicati dagli operatori tradizionali, si acquistavano dei servizi cloud. Oggi la grande novità è che persino le grandi aziende, per grandi servizi, per grandi data center, stanno in qualche caso scegliendo di remotizzare i loro sistemi informativi. Sì. Tra l'altro, la Sardegna, insomma, mi metto a fare il commerciale vostro, quasi, la Sardegna è un buon posto perché non è sismica e quindi per fare anche data recovery, disaster backup, recovery. Noi offriamo dei servizi di disaster recovery. Poi c'è molta è vero che c'è molta fibra verso la Sardegna, da e per la Sardegna? Ci sono diverse, delle belle dorsali. Diversi anni fa, proprio anche a seguito della nascita di Tiscali e di altre esperienze in Sardegna, la pubblica amministrazione decise di favorire la posa di un nuovo cavo. Quindi, effettivamente, da qualche anno, dal decennio passato, è stata messa parecchia fibra e quindi c'è molta capacità. E quindi, è ben servita. Sì. A proposito di fibra, cosa potete fare voi come operatore singolo, che cosa andrebbe fatto in Italia, perché non possiamo pensare che la DSL, il rame, ci accompagni per i prossimi 10, 20, 30 anni. In questi ultimi anni ne abbiamo veramente parlato tantissimo, no? Si è parlato della società della fibra, della società partecipata a tutti gli operatori che avrebbero potuto condividere un'infrastruttura unica, poi è venuta la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti se ne occupasse, poi altri fondi di private equity internazionali, e ho come l'impressione che mentre ci siamo tutti attardati in queste discussioni non abbiamo prestato attenzione a tante altre cose che invece si possono fare subito, con pochi investimenti e con grandi anche risultati. Per esempio, siamo in ritardo nell'utilizzo delle tecnologie, dell'informatica, del web, della pubblica amministrazione. Siamo in ritardo nell'utilizzo di internet, del web, dei social network, nelle aziende per facilitare anche le vendite, nell'e-commerce e così via. Siamo assolutamente in ritardo nell'immaginare e costruire i nuovi servizi. Per cui anche in questi 4-5 anni, mentre discutevamo della fibra, Twitter è diventato un grande successo, poi c'è stato Instagram, poi c'è stato Facebook, poi c'è stato chissà che, ne sto dimenticando almeno 10 di servizi che hanno avuto grande successo nel mondo, hanno creato grande valore per gli azionisti e quantità importanti di posti di lavoro. Quindi a me va bene il discorso sulla fibra, ma nel frattempo anche il vecchio doppino in rame è diventato un doppino capace di trasportare 20 mega, anche 40, persino 50 mega con le tecnologie adesso di affasciamento. Sì. Oppure con la tecnologia della fibra fino al cabinet e poi utilizzando il rame per l'ultimo tratto. Ma mentre parliamo di questo, che è importante, non trascuriamo l'importanza che avrebbe invece di utilizzare appieno la rete che abbiamo oggi e l'internet di oggi nella pubblica amministrazione, nell'azienda, nel sistema scolastico, nel sistema sociale dell'Italia. Bene, io ringrazio Renato Soro per essere stato con noi. Grazie molte a lei. Grazie. Buon molte a lei. Lavoro, a presto. Grazie molte ancora. E adesso noi ci fermiamo per un minuto, riprendiamo questa puntata di 2024 tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Bene, chi ci chiede sempre come si scrive Istella, beh, non è difficile, Stella è una stella, quindi Istella con la I davanti, quindi www.istella.it, questo è il nuovo motore di ricerca lanciato qualche giorno fa da Tiscali, un progetto completamente italiano e mi sembra un progetto molto ben fatto, naturalmente è giovane, quindi deve maturare, ma provandolo, riprovandolo, mettendolo sotto stress, magari cresce più velocemente. Allora, adesso vi parlo della Consob, che ha avviato una consultazione su una cosa molto interessante che si chiama crowdfunding, cioè la raccolta di capitali da parte di giovani aziende, startup, attraverso internet. Quindi stiamo parlando di aziende giovani che devono raccogliere capitali e possono andare dal venture capital, ma in Italia sappiamo che il settore del venture capital è molto debole, non parliamo delle banche che faticano a dare soldi, già alle aziende tradizionali, figuriamoci alle startup. Allora, negli Stati Uniti soprattutto sono nate alcune piattaforme per raccogliere attorno a dei progetti che si presentano via internet denaro, quindi che anche i cittadini possono mettere sul piatto. Il più famoso, il più noto si chiama Kickstarter. E quindi la Consob ha avviato anche in Italia questa consultazione che si chiuderà il 30 aprile ed è conseguenza del decreto crescita bis. All'interno di questo decreto del governo Monti c'è proprio questa previsione di regolamentare la raccolta di fondi per giovani aziende attraverso internet. Questa proposta di regolamento si propone di agevolare da una parte l'attività dei gestori dei portali online al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative. Dall'altra di fissare, questo è molto importante, fissare dei paletti di sicurezza che garantiscono ai piccoli risparmiatori che aderiscono a queste iniziative un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato alla clientela retail dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento. Tutto ciò per dire, insomma, che ci vogliono alcune regole per tutelare almeno in parte, poi se uno finanzia un progetto che fallisce, certo non è che può pretendere di avere indietro i soldi, però almeno per tutelare nei casi in cui magari c'è qualcuno che tenta di scappare con i soldi. Allora, giusto per farvi un esempio di quello che sta succedendo su Kickstarter, uno degli ultimi progetti di cui si è parlato molto, che è relativo alla costruzione di una piccola console da gioco, ha raccolto 8 milioni di dollari. La console si chiama Ouya, quindi O-U-Y-A. Ouya è una piccola console da gioco basata su Android che sarà disponibile negli Stati Uniti, e questa è notizia della settimana, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, dal 4 giugno a $99 oppure 99 sterline. Questo è stato un progetto che è stato lanciato grazie alla partecipazione di tutte le persone su Kickstarter. Concludiamo con un altro argomento che invece riguarda soprattutto chi viaggia in aereo, ma è sicuramente un'evoluzione molto affascinante della rete internet, laddove internet è difficile da utilizzare, ovvero sugli aeroplani. Allora, entro poche settimane Delta Airlines dovrebbe accendere un nuovo sistema di connessione ad internet a bordo degli aerei che collegano l'Europa con gli Stati Uniti. In questo modo Delta sarebbe la seconda compagnia dopo Lufthansa ad offrire questo servizio sulle tratte atlantiche. Lufthansa da alcuni anni ha il proprio sistema Flynet, mentre Delta utilizzerà il servizio GoGo, che è molto diffuso negli Stati Uniti, servizio dell'americana AirCell, che negli Stati Uniti sfrutta antenne terrestri che collegano gli aerei ad internet, poi sull'aereo c'è un hotspot Wi-Fi. Per le tratte oceaniche non è che si possono mettere antenne sul mare, e allora bisogna utilizzare il satellite. Di questa notizia abbiamo parlato con Pietro Guerrieri, che è General Manager di SES in Italia. Diciamo, a livello di servizio, come diceva anche lei, il servizio non è molto innovativo, nel senso che AirCell è una società presente dal 1991 e fornisce già questo tipo di servizi di connettività bidirezionale internet ai passeggeri a bordo di aerei. E dice non è molto innovativo, ma se guardiamo all'Italia e all'Europa lo è, diciamo. Sicuramente. Per gli sì, Stati sì. Uniti non lo è, certo. Certo, parlavo un po' più dal punto di vista del quadro americano. Appunto per questo tipo di mercato e per questo tipo di servizio la vera novità è che GoGo ha deciso di fare una partnership con un partner globale come SES. È un partner che può servire, può fornire servizi integrati, perché questo è un servizio che viene fornito tramite tre satelliti diversi che sono posizionati chiaramente su posizioni orbitali distanziate lungo l'Atlantico, in modo da poter fornire la continuità di copertura in banda KU, sì, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Esattamente. Ecco, questo tipo di servizio non è soltanto capacità satellitare che noi forniamo a GoGo, ma è un servizio integrato con servizi di teleporto e quindi accessi alla rete terrestre bidirezionale internet, in modo tale da fornire un servizio chiave in mano di connettività per il passeggero, che in modalità Wi-Fi può usufruire di connettività in qualsiasi momento di queste lunghe tratte transoceaniche, e che sono un elemento molto interessante, perché parliamo di un pubblico captive molto che è in modalità connessione per un lungo tratto del viaggio, insomma. Sì. Quindi voi fornite, diciamo, la connettività ad internet fino all'aereo, che ha un'antenna che riceve dal satellite. Esattamente, questo è stato fatto grazie a nuovi tipi di modulazione molto sofisticati. In questo senso, diciamo, siamo abbastanza all'avanguardia, ci sono delle novità. Diciamo che la tendenza comunque è a sviluppare questo tipo di business. I servizi internet per gli aeromobili sono destinati a salire da un punto di innanzitutto perché è una fonte di revenue aggiuntiva per gli operatori, per le aerolinee, ma anche come elemento forte di differenziazione nel valore aggiunto che un operatore aereo può fornire ai propri clienti. Senta, le faccio una domanda che potrei fare ai colleghi, ai vostri clienti di GoGo, ma la faccio a lei perché sicuramente conosce. Che cosa possiamo aspettarci in Europa? Allora, visto che le tratte tra l'Europa e gli Stati Uniti sono tratte che vengono utilizzate molto naturalmente per chi lavora, chi viaggia per business, ma visto che gli Stati Uniti sono anche una destinazione turistica molto forte, insomma ci saranno molti nostri ascoltatori che nei prossimi mesi potranno già provare questi servizi, già nei prossimi mesi? Potranno sicuramente provarli. GoGo estenderà questi servizi internazionali, quindi avrà il lancio di servizi internazionali con Delta Airlines entro il primo semestre del 2013. Quindi diciamo che i più fortunati, magari fra un paio di mesi, salendo a bordo di... Non voglio fare pubblicità per questi aerei. No, però questa è una notizia. Sperando poi che le rotte tra l'Italia e gli Stati Uniti siano coperte da questo servizio e non partano prima in altri mercati. Però questo poi lo vedremo. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, a presto. Questo lo mettiamo nel capitolo luoghi che fino ad oggi non erano raggiunti da internet e lo saranno presto. Abbiamo parlato più volte perché anche fino a qualche anno fa anche il treno era un luogo non raggiunto da internet, invece oramai sui treni ad alta velocità, poi che funzioni sempre è un'altra cosa, perché a volte o io stesso provo o ricevo messaggi di persone che si lamentano un po' sui treni ad alta velocità di non riuscire a collegarsi ad internet, mentre invece sugli aerei questa è ancora una rarità per l'Europa, almeno nelle tratte nazionali. Ma c'è questo servizio che potrebbe essere copiato, che si chiama GoGo negli Stati Uniti. Molte compagnie aeree hanno equipaggiato i propri aeroplani e da terra ci sono delle aziende che irrorano il cielo di questo segnale, quindi sparano il segnale in aria, viene ricevuto dagli aerei e sopra l'aereo c'è connettività di internet e funziona piuttosto bene. Io ho provato, ma anche altre persone che ogni tanto mi scrivono e io chiedo: dove sei? Sono tra San Francisco e New York e quindi sto volando a 10.000 metri di quota collegato ad internet. Oramai essere collegati ad internet è una necessità, quindi stare in volo 5, 6, 8 ore senza poter accedere alla posta elettronica o ad altri servizi a volte diventa un po' un problema, soprattutto se si lavora, se si va per turismo magari si può portare pazienza, anche se però mentre si arriva magari si può organizzare l'arrivo, prenotare un albergo, il taxi, eccetera eccetera. Bene, noi concludiamo questa puntata di 2024 che troverete anche sul nostro servizio podcast tra poco. Vi ricordo che potete comunicare con noi anche durante la settimana attraverso Facebook o Twitter, ma durante la settimana vi consiglio di esprimere i vostri pareri con qualche parola in più attraverso la nostra email 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, grazie ad Anita Panizza che ci ha aiutato in redazione durante la settimana, grazie oggi a Rosa al centralino. Ciao Rosa, buon weekend e buona Pasqua, e buona Pasqua anche a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Buona Pasqua a tutti i nostri ascoltatori, noi ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana parleremo di scuola digitale, c'è un progetto molto interessante che si chiama Impara Digitale, ci sarà un evento a Bergamo la prossima settimana, quindi io vi invito ad andare sul sito internet di imparadigitale.org, un'associazione che è nata proprio per introdurre la tecnologia all'interno delle scuole, quindi www.imparadigitale.org, c'è questo evento e noi nella puntata della prossima settimana parleremo di come la scuola si sta attrezzando, a volte con iniziative autonome per introdurre la tecnologia dentro le aule scolastiche. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.